viso di plastica, sabato freddo vuoto di città, per chi vive in bingo, tra morte e affinità, felicità, paradiso di plastica, contenitore di fragilità, per chi si brucia la testa, inizia la festa e festa. E guardami, volevo dirti come mi chiami, ascoltami, non ti ricordi ma noi ci conosciamo. E guardami, volevo dirti come mi chiami, ascoltami, non ti ricordi ma noi ci conosciamo. Di plastica, sabato vuoto, freddo, unicità, per chi vive in bilico, tra la noia e la voglia di libertà, paradiso di plastica, contenitore di stupidità, soffocando la noia, surrogando la gioia. E guardami, volevo dirti come mi chiamo, ascoltami, non ti ricordi ma noi ci conosciamo. E guardami, volevo dirti come mi chiamo, ascoltami, non ti ricordi ma noi ci conosciamo. Guardami, volevo dirti come mi chiami, ascoltami, non ti ricordi ma noi ci conosciamo. Guardami, volevo dirti come mi chiami, ascoltami, volevo dirtelo che forse ti amo.